È abbastanza complicato riuscire ad esprimere certi argomenti, come magari a volte si cerca un po' di nasconderli e stare così a nudo un po', crea un po' un senso di paura. Ho paura di essere frainteso e ho paura di usare le parole sbagliate per comunicare quello che voglio dire, insomma. Anch'io mi sento teso e ho paura di non saper come rispondere alle domande. Se quando la tua vita è ammettere di essere fragili e riuscire a comprendere certe emozioni senza essere spaventati. Tutti possono sentirsi fragili e perciò non devi sentirti come se gli altri potessero odiarti per questa tua fragilità. La società si aspetta che l'uomo non debba essere fragile. Mi vedevano come se non valevo niente, perché non ero abbastanza uomo. Nel mio momento fragile ero io che mi rinchiudevo e allontanavo tutti. Se non riesci a superare la cosa da solo, cerca aiuto perché di sicuro qualcuno che ti vorrà aiutare e non sei da solo. Nel mio momento fragile, invece che allontanarsi, le persone si sono avvicinate molto di più a me. Mi hanno aiutato anche loro molto a riprendermi. Il mio punto di forza credo che sia la mia voglia di ascoltare le persone. Riuscire a capire le persone? E secondo me il mio punto di forza è l'empatia e riuscire a rivedermi negli altri, cercare di ascoltarli e aiutarli al meglio e sì, rivedermi in loro.